185. Bombe di semolino. Latte, 3 decilitri, pari a grammi 300. Semolino di grana fine, grammi 130. Burro quanto una noce, zucchero un cucchiaino, sale quanto basta, odore di scorza di limone, uova numero 3. Mettete al fuoco il latte col burro e lo zucchero e quando comincia a bollire, versate il semolino a poco, onde non abbia far bozzoli. Tenetelo sul fuoco fino a che non sia ben sodo, agitandolo sempre col mestolo perché non si attacchi al fondo. Ritiratelo dal fuoco, salatelo e subito scocciategli dentro il primo uovo. Poi, quando sarete per friggerlo, gli altri due, uno alla volta, montando le chiare e lavorandolo sempre molto col mestolo. Quando lo gettate in padella, dategli la forma di pallottole, le quali rigonfieranno per divenir bombe leggerissime che vanno spolverizzate di zucchero a velo, perduto che abbiano il forte calore. Usate fuoco leggero e dimenate la padella.